ma poi dovrò imparare a non amare più così e ridare terra e mare ai miei nervi fragili. Prima o poi asciugherò le mie ferite con il fuoco di un falò e mi sentirò felice della vita che farò. Prima o poi, non qui, non purtroppo con te, non qui, non adesso. Circondata da alberi e una rosa che, quella rosa che non sei, non per me. Perché non basta stare insieme per dire che va bene, che qualcosa ci trattiene ancora. Poi dovrò imparare a non amare più.